Bentornate, bentornati a Tabula Rasa. È il 19 ottobre, giovedì 19 ottobre, e oggi inizieremo la nostra prima puntata della nuova serie della saggistica, la nuova serie di quest'anno, una puntata dedicata all'economia declinata sul genere e anche, diciamo così, sulla responsabilità morale delle imprese commerciali. E lo facciamo con due libri che si parlano, con due libri di due case editrici differenti, ma che sicuramente hanno molto in comune. Il primo libro di cui ci occupiamo è un libro pubblicato dalla casa editrice Il Saggiatore, che è una casa editrice che ha un catalogo interessantissimo su un sacco di temi e sicuramente anche sempre con libri interessanti, ed è praticamente scritto da Maria Virginia Libaget, che è appunto il nome dell'autrice, che oltre ad essere un'economista, una professoressa di economia all'University of Massachusetts, è anche una consulente tecnica della Banca Mondiale. E parliamo di questo libro insieme a Marta di Radio Onda Rossa, che ovviamente ringraziamo di essere qui con noi. È un'amica della radio e un'amica soprattutto di questa trasmissione, con cui spessissimo ci troviamo a conversare di libri, perché oltre ad essere una grande lettrice è anche una grande analista, e quindi è sempre molto interessante conversare con lei di temi, e in questo caso converseremo con lei appunto di economia e di economia queer. Allora, come dicevo, Marta, appunto parliamo di questo libro, che è anche un libro abbastanza corposo, sono circa 350 pagine. È un libro che è uscito da qualche mese, non da tantissimo. È un libro che ha fatto anche, devo dire, ha avuto anche un buon riscontro stampa. Perché? Perché ovviamente affronta un tema super attuale e soprattutto in qualche modo affronta un tema abbastanza consustanziale, in qualche modo, al sistema economico in cui tutte e tutti noi viviamo, e in qualche modo anche a sostegno probabilmente di un tentativo di migliorarlo, questo sistema economico. È di pochissimo tempo fa, di pochi giorni fa, la notizia, no, che il Nobel all'economia è stato dato a una economista, anche in questo caso un economista statunitense, che si chiama appunto Claudia Goldin, per aver migliorato la nostra comprensione dei risultati appunto del mercato del lavoro femminile. Quindi in qualche modo la declinazione, diciamo così, del mercato del lavoro su una prospettiva di genere, in quel caso una prospettiva di genere femminile. E quello appunto che Claudia Goldin ovviamente ha analizzato e ha anche poi riportato, diciamo così, come risultato, è che l'inclusione del lavoro delle donne all'interno del sistema economico mondiale, ovviamente, oltre a essere una grande opera di giustizia sociale, è anche un arricchimento, diciamo così, della produttività mondiale. Ed è un po' questo anche il tema di questo libro. È anche un po' il tema di Economia Queer. In questo caso, però, la declinazione è sulla comunità, la famosa comunità LGBTQ. E quindi, intanto, proprio per iniziare il nostro discorso, volevo chiedere a Marta di raccontarci la tesi fondamentale di questo libro, la tesi fondamentale di Economia Queer, che poi andiamo magari ad approfondire meglio. Allora, sì, direi che in realtà appunto l'introduzione che tu hai fatto mi sembra super calzante, chiaramente questo parallelismo col premio Nobel, perché diciamo che nell'enorme diversità pure anche un po' delle teorie elaborate, no? Sul gender gap in quel caso, quindi i divari salariali tra lavoratori e lavoratrici, in questo caso i costi delle discriminazioni che colpiscono le persone LGBTQIA+, entrambi i pensieri, possiamo dire, si contestualizzano in quel filone, diciamo, che economico, di analisi economica, di politica economica, che mira a quantificare i costi delle disuguaglianze. Quindi la tesi fondamentale diciamo, di economia queer, vabbè, innanzitutto secondo me è anche interessante sottolineare, perché non è per niente scontato che l'autrice è lesbica, cioè perché comunque almeno cioè, mi sembra un elemento importante, almeno si inserisce anche in quel filone di analisi di noi, che parliamo di noi in qualche modo, e che evidenzia, diciamo, tutta l'enorme diversità interna alla cosiddetta comunità LGBTQIA+, nel senso che poi è fatta di persone che la pensano in maniera completamente diversa su un sacco di cose. Questo libro, diciamo, si inserisce nel filone di quantificare, appunto, come diciamo, i costi delle disuguaglianze, parte, diciamo, dal come presupposto, no? Dal fatto che una parte di questa analisi è stata già articolata negli anni a livello aziendale, cioè sono molti anni che le aziende provano a quantificare i profitti aggiuntivi che derivano dal creare un ambiente inclusivo per le varie soggettività marginalizzate, quindi prima erano le persone razzializzate, black, soprattutto in ambito statunitense, le persone LGBTQIA+, le lavoratrici donne, le persone con disabilità, eccetera, è il core, cioè proprio il concetto base delle politiche di diversity management, cioè in che modo per le aziende è conveniente sia in termini di fidelizzazione dei lavoratori che di accaparrarsi una nuova fetta di consumatori e consumatrici, creare delle politiche di rebranding, di immagine e delle politiche organizzative interne delle risorse umane che siano inclusive. Allora, l'autrice di Economia Queer ci dice: a partire da queste considerazioni possiamo espandere il discorso e tentare di fare un'analisi di questo tipo che copra l'intera economia del paese, no? L'intero sistema economico a livello dei singoli stati e a livello globale. Quindi l'argomentazione dell'autrice è provare a dimostrare che i costi dell'esclusione sono molto elevati per le economie dei paesi. L'esclusione da un sacco di punti di vista, perché poi appunto la struttura del libro in realtà è molto, molto chiara, sembra quasi appunto un manuale universitario, quindi c'è una parte introduttiva in cui si spiega un po' il ragionamento di base che è questo, poi si analizzano i costi in base all'ambito di esclusione, quindi abbiamo l'esclusione in ambito educativo, nel sistema dell'istruzione, in ambito occupazionale, in ambito sanitario, della tutela della salute. Si ripercorre poi qual è l'argomentazione aziendale, cioè perché le aziende in primis hanno provato a fare questo tipo di analisi. L'autrice, in quanto economista, tenta una specie di stima economica, anche partendo, diciamo, dagli studi esistenti dei costi a livello globale dell'esclusione, e poi, diciamo, gli ultimi due capitoli sono un po' spiegare in che senso è utile un'argomentazione economica in favore dell'inclusione. Diciamo che ovviamente poi le critiche a questo ragionamento sono tante, lei prova un po' a pararsi prima ancora che le vengano poste formalmente, nel senso che dice che è chiaro che l'argomentazione economica non è di per sé sufficiente, non è l'unico motore, non è diciamo tutta una questione di soldi, non è una monetarizzazione dei diritti, diciamo, ma dal suo punto di vista, diciamo, di attivista LGBTQIA+, di donna lesbica inserita pienamente nell'establishment accademico e economico, e anche, diciamo, proveniente da una parte del mondo, che insomma sono gli Stati Uniti, dice: l'argomentazione economica può essere uno strumento in più, soprattutto se fondato comunque su un presupposto, cioè il fatto che l'inclusione delle persone LGBTQIA+ è una questione di giustizia sociale, un diritto umano, ma in più conviene. Questo io la riassumerei così, la tesi del libro, diciamo. L'hai riassunta, devo dire, in maniera abbastanza precisa, direi perfetta, e proprio tornando, no, a una specifica della nostra autrice, cioè appunto abbiamo una economista lesbica che fa un libro proprio in qualche modo per tracciare un percorso di analisi della società, in questo caso della società economica, a partire da una, declinandola appunto sulla comunità LGBT. C'è una parte del libro che, devo dire, ho trovato abbastanza interessante, che è proprio quella che racconta il vantaggio lesbico, no? Cioè il fatto che effettivamente sì, c'è una discriminazione della comunità LGBT quando si tratta di gap salariale o anche proprio impossibilità di accesso ad alcune professioni. Pensiamo soltanto, non so, per esempio, no, all'esercito, no? Per tanti anni all'esercito, per esempio, non so, le donne non potevano fare carriera, oppure non ci si poteva dichiarare omosessuali, diciamo. Quindi diciamo, proprio c'era a volte anche una impossibilità d'accesso alle professioni. È ovvio che noi stiamo parlando di un mondo occidentale, perché poi se andiamo in altre parti del mondo i problemi sono dei reali problemi di sopravvivenza rispetto alla comunità LGBT. Però ritorniamo appunto a quello che lei identifica come il vantaggio lesbico, e lei dice questa cosa interessante, dice sì, effettivamente gli uomini gay statisticamente hanno, diciamo, fuori dal cliché, no? Noi sentiamo sempre parlare di lobby gay come se fosse questa comunità di uomini gay bianchi, cis, ricchi, snob, che diciamo, fanno appunto un gruppo di potere chiuso a sé stante. E lei proprio dice anti-cliché, possiamo invece dire, statistiche alla mano, che gli uomini gay invece sono abbastanza discriminati nel mondo del lavoro, mentre probabilmente le donne lesbiche hanno un vantaggio che riguarda, un vantaggio diciamo così all'interno di questo sistema economico, ovviamente un sistema economico che tende alla iperproduttività e allo sfruttamento diciamo del tempo delle persone, e quindi dato che le lesbiche non sottostanno in qualche modo alla richiesta e all'aspettativa sociale che viene data alle donne etero, e cioè sposarsi giovani e fare figli, allora è possibile che invece le donne lesbiche abbiano un vantaggio, diciamo così, rispetto alla loro carriera. E infatti di questo volevo un po' parlare con te, Marta, di questo vantaggio Sì, lesbico. diciamo che quella parte mi ha fatto un po' ridere, nel senso che, cioè, il punto è che chiaramente le donne lesbiche, poi tra l'altro nella rappresentazione stereotipica, quindi di persone tendenzialmente che non hanno un carico di cura, come se il carico di cura fosse solo la genitorialità, o che non hanno delle forme di cura genitoriali o una vera e propria genitorialità, ma comunque sì, è chiaro che se quella è la rappresentazione, probabilmente la donna lesbica più tempo per lavorare rispetto alla madre di 3 figli, non lo so, sì, ok, però chiaramente poi l'autrice si risponde anche da sola dicendo sì, vabbè, dopodiché comunque è sicuramente un gruppo rispetto alle donne eterosessuali che vivono oppressione, tra l'altro una cancellazione sociale, un'invisibilizzazione, un non riconoscimento dei propri rapporti affettivi, familiari, insomma, che chiaramente rafforza un sistema di eteronormatività totale che vige in questa società. Però al di là di questo, in realtà, secondo me è un esempio molto calzante di sicuramente uno dei grandi limiti di questa impostazione, cioè uno dei limiti proprio metodologici di questa impostazione, perché ovviamente parlare di persone LGBTQIA+ e in questo a parte che lei fa chiaramente una disclaimer sul fatto che si occupa principalmente di persone LGB, a volte T, quasi mai I, Q, non si sa chi siano le persone Q, quindi ok, e lo fa perché parte ovviamente dai dati esistenti. I dati esistenti sulle persone LGBT sono dei dati assolutamente parziali, questa è una cosa che viene riconosciuta in ogni ambito. Dagli ambiti più accademici di policy all'attivismo, la cosa che viene più denunciata di tutti è l'assenza di raccolte dati sistemiche che non riproducano bias, stigmi e discriminazioni sulle condizioni di vita delle persone LGBTQIA+. Non esistono dati comprensivi, chiari, longitudinali, quindi che permettono nel corso del tempo di capire come vivono le persone LGBTQIA+ e anche di rispondi, come risponde lo stile di vita all'introduzione di cambiamenti positivi o negativi nelle nostre vite. Quindi questa riflessione su, nel senso, un eventuale vantaggio delle persone lesbiche, un'inferenza sulla base di dati lacunosi, parziali, in cui tendenzialmente non si, cioè è una delle ipotesi, sì, potrebbe essere un'ipotesi, oppure potrebbe esserci mille altri fattori che influenzano il livello di reddito, poi qual è l'indicatore di livello di reddito, il posizionamento nella gerarchia all'interno delle organizzazioni, l'avanzamento di carriera, qual è poi l'indicatore che ci determina a livello di successo, di benessere, in cui le lesbiche sarebbero avvantaggiate rispetto alle donne eterosessuali. Questo lo dico non perché mi interessi in modo particolare dimostrare che le donne eterosessuali siano più avvantaggiate delle donne lesbiche, ma proprio per minare, diciamo, questo. Invece sì, ci tengo alla base una presunta neutralità dell'analisi economica, perché i dati, il modo in cui vengono raccolti non è neutro, è una scelta politica, anche l'assenza di dati è una scelta politica, e il modo in cui vengono analizzati è diciamo, assolutamente politico. Anche i modelli econometrici sono basati su delle semplificazioni che sono orientate dal ricercatore o dalla ricercatrice che li sviluppa. E su questo poi ti lascio la parola. Un elemento che mi sembrava molto interessante è che lei stessa dice, è una domanda a cui è molto, molto difficile rispondere, no? Perché poi lei adotta anche una visuale, diciamo, che non è solo statunitense, no? Cerca di adottare una prospettiva globale e a un certo punto dice che uno dei grandi interrogativi a cui non si riesce a trovare una risposta è il perché nei paesi a più alto reddito, con PIL più alto, c'è un livello di esclusione delle persone LGBTQIA+ minore. Cioè, una volta che io costruisco un indice di inclusione delle persone LGBTQIA+, sulla base di una serie di indicatori comunque da me scelti, prendo il PIL dei paesi e faccio un match. Tra queste due cose, il fatto che esista una corrispondenza tra livelli di inclusione più alti e PIL più alto, che nesso di causalità mi determina o esplicita? Cioè che a livelli più alti di reddito i paesi sono più propensi a includere, che l'inclusione di per sé fa aumentare il reddito? L'impossibilità di stabilire questi nessi causali fa sì che le teorie anche proposte dal libro non reggano, e no, cioè nel senso non so come dire, non è che siano proprio solidissime. Perché? Perché evidentemente le politiche di inclusione sono delle politiche, cioè al di là della convenienza sono delle scelte politiche che cambiano anche molto in base ai governi, chiaramente alle fasi storiche, ai governi e alle lotte che in quei paesi si articolano. Ma infatti a sostegno di quello che stai dicendo, Marta, basta citare quello che dice l'attuale segretaria del Tesoro degli Stati Uniti su questo libro. Dice appunto che è una lettura obbligatoria per i leader aziendali e politici, cioè ovviamente è diciamo, in qualche modo a seconda dei governi, a seconda degli indirizzi politici di un paese rispetto all'economia, la nostra lì budget in qualche modo spinge a che questi leader e questo management aziendale allarghi in qualche modo la fetta delle persone da includere in un sistema economico prestabilito. Noi fino adesso avevamo, cioè, per me la cosa interessante che fa questo libro è di spostare la prospettiva, nel senso che fino adesso abbiamo sempre pensato, o quantomeno rispetto alla riflessione mainstream che si fa della comunità LGBT, alla comunità LGBTQ come una categoria, diciamo così, di consumo, no? Cioè le aziende si sono rese conto che là fuori c'era una fetta di mercato che non avevano ancora non avevano ancora conquistato, e da un certo momento in poi hanno cominciato a realizzare prodotti, merci, indicatori, eccetera, per andarci ad accaparrare quella fetta di mercato, no? Cioè, quindi noi come comunità, come una categoria di consumatori e consumatrici. Questo libro a un certo punto ribalta la prospettiva, cioè la comunità non è solo una categoria di mercato, diciamo, di consumatrici e consumatori, ma può anche diventare, quindi non soltanto il profitto lo potete fare là, diciamo così, dice alle aziende il profitto lo potete fare anche in origine, cioè includendo sempre di più le persone della comunità LGB, come dice appunto la nostra economista, all'interno dei board delle aziende. Per andare appunto verso, diciamo, poi l'analisi finale, insomma, del libro e di quello che poi è stata la lettura di questo libro per entrambe, perché poi abbiamo avuto una lettura comune e anche un'idea. Diciamo, ci siamo fatte un'idea abbastanza simile dell'importanza da una parte di una ricerca descrittiva, perché poi questo ce lo possiamo dire, no? Il libro è una ricerca descrittiva del fenomeno e poi sul finale tenta in qualche modo di dare un approccio analitico e in qualche modo prospettico al futuro della società, di una società più inclusiva anche a livello economico. E quello che lei dice, ed è qui appunto che volevo stimolarti, è che poi alla fine le imprese possono aiutare, e lei in questo ha una fiducia ampia, diciamo così, rispetto alla possibilità che le imprese in qualche modo, quindi l'economia, possa effettivamente incidere sul cambiamento della società, possono aiutare anche a cambiare le leggi dei paesi, perché le leggi, almeno questo è quello che lei dice, se ci sono delle leggi che in qualche modo aiutano la comunità a essere inclusa nella società, anche le persone più restie e più rigide rispetto all'inclusione, diciamo, delle persone LGBTQ, con una legge che invece in qualche modo, per esempio, per essere proprio pratici, la legge sul matrimonio ugualitario potrebbe convincere anche le persone più rigide rispetto alla comunità, invece a essere più aperta e inclusiva, perché se c'è una legge che lo permette, allora probabilmente proprio tanto male non deve essere. Cioè, questo è un po', diciamo, semplificando quello che la nostra economista ci dice. Quindi volevo un po' racchiudere la prospettiva di cambiamento societario che lei incita con questo libro insieme a te. Facile, Allora, facile. no, nel senso che poi c'è, cioè, chiaramente penso sia emerso abbastanza chiaramente il fatto che non mi convince molto questa impostazione, ma vabbè, cioè, va bene così, non è un problema. Io penso che questo libro in Italia sia uscito nel 2023, ora non so, sinceramente non so di che anno sia la versione originale uscita negli Stati Uniti. Adesso te lo Però dico, intanto. Se è, diciamo, anche solo lontanamente contestualizzabile dall'inizio della presidenza Trump, per me ogni sua argomentazione è abbastanza fallace, nel senso che poi io mentre lo leggevo, è vero che, diciamo, sicuramente alla fine, cioè sicuramente riconosco in parte che lei offre uno strumento di analisi, anche mette a disposizione dell'attivismo LGBT, dell'associazionismo LGBT, uno strumento che può essere uno strumento di pressione. Quello che, diciamo, a livello, utilizzando un termine anglofono, viene chiamato lobbying. Questo è proprio un libro per chi fa lobbying sulle istituzioni e sulle aziende. È vero che puntare sulla convenienza economica, è una leva che funziona, una leva che funziona a livello sicuramente delle organizzazioni private e aziendali, ma è una leva che funziona anche a livello governativo. Quello che lei dice alla fine può essere uno strumento utile a chi fa campagna, attività di lobbying, di advocacy in favore dell'inclusione per esempio, far aumentare le risorse a disposizione dell'associazionismo LGBT, favorire migliori raccolte dati, modificare le leggi in una chiave inclusiva, però diciamo, quello che mi viene da pensare e da chiedermi, da chiedere insomma anche a te, è se diciamo, nonostante sia possibile dimostrare e argomentare i costi dell'esclusione, questo per esempio è una cosa che è stata fatta tradizionalmente da tanti studiosi quando, e studiose quando si parla appunto di razzismo, quando si parla anche del costo di negare la salute riproduttiva delle donne, cioè ci sono state tante studiose che hanno dimostrato i costi anche a livello economico, per esempio, di gravidanze non desiderate, di uno scarso accesso ai sistemi di contraccezione, ai servizi di salute riproduttiva, non solo nelle economie occidentali, ma in generale. Non mi sembra che gli Stati Uniti, avendo negli ultimi anni, dopo la sentenza della Corte Suprema, di fatto rasa al suolo il diritto all'aborto negli Stati Uniti, abbiano vissuto un contraccolpo in termini di investimenti, in termini di peso nell'economia internazionale degno di nota, nel senso che poi non è vero che ledere i diritti delle minoranze e adottare delle politiche di discriminazione e di esclusione porti automaticamente a un disinvestimento da parte delle aziende, un diciamo, contraccolpo finanziario sui mercati internazionali e anche delle ripercussioni in termini di credibilità economica di quegli stati. Quindi cioè quello, il minimo che mi viene da dire è che chiaramente, ma come dice anche l'autrice, l'argomentazione economica non basta, servono le argomentazioni basate sulla giustizia sociale e sui diritti umani. Quello che mi viene da dire in più è che servono le lotte, perché senza le lotte, e delle lotte tra l'altro rispettose delle diversità, nel senso che poi cioè lei, da brava statunitense, prova a fare delle differenziazioni tra vari paesi del mondo, però anche sulla tematica dell'inclusione dei diritti delle persone LGBTQIA+, anche le ONG, le associazioni occidentali hanno una portata coloniale sugli altri paesi enorme. Diciamo che appunto io mi ridurrei a dire che senza le lotte non si conquistano i diritti, e quindi tantomeno è possibile proporre un'argomentazione economica se non c'è spazio delle persone LGBT di lottare per la propria sopravvivenza. Beh, mi sembra un modo molto bello di concludere anche proprio la lettura critica di questo libro e noi, come sai, concludiamo le nostre interviste sempre con un consiglio di lettura delle nostre ospiti, quindi cosa ci consigli di leggere, a parte appunto Economia Queer di cui abbiamo già parlato? Allora, io ci ho pensato, perché quest'altra sono arrivata preparata a questa domanda, e ho pensato di, sperando che mi scusiate, di non consigliare un libro recente in realtà, e purtroppo neanche un libro in italiano, però magari questo incentiverà anche qualcuno a tradurlo prima o poi in italiano, a pubblicarlo in Italia. È un libro di Dean Spade. Dean Spade è un compagno, un attivista statunitense, un compagno trans. In Italia da poco, insomma poco tempo fa, dopo il Covid, dopo la pandemia, insomma, è stato pubblicato un libro sul mutualismo, però in realtà io Dean Spade l'ho conosciuto anni fa, rispetto a un altro suo libro del 2015, che è stato pubblicato da, adesso vi dico, la casa editrice, che è la Duke University Press, e il libro si chiama Normal Life. Dean Spade è un giurista, un avvocato, tra le altre cose, è un accademico, e praticamente in questo suo libro lui evidenzia tutti i rischi di perseguire delle politiche basate solo sul riconoscimento legale dei diritti per le persone LGBTQIA+. Con un'argomentazione che a me è sempre sembrata molto convincente, diciamo, mette la comunità LGBTQIA+ in allerta rispetto a delle strategie di omonormatività, di normalizzazione che gli stati e le aziende portano avanti. Dividendo in questo modo chiaramente la comunità queer in una chiave nazionalista, in una chiave anche appunto normativa, accettando, diciamo, della comunità queer solo quello che è digeribile da parte del sistema liberale, liberista, capitalista in cui viviamo. E quindi come è necessario fare sempre attenzione a quello che si chiede, quello che si vuole ottenere, il perché alcuni diritti vengono concessi e invece altri no, perché alcuni stili di vita risultano accettabili, perché per alcune forme di amore vale love is love, per altre no, perché è stato possibile ottenere, per esempio, l'unione civile e non la stepchild adoption, cioè cosa c'è dietro le politiche dei diritti. Molto interessante, grazie di questo consiglio, lo ripeto, Dean Spade, Normal Life, Duke University, per chi appunto può leggerlo in inglese, aspettando che qualche editore italiano appunto lo traduca. Ringraziamo tantissimo Marta, insieme a lei abbiamo parlato di economia queer, perché i diritti civili sono un vantaggio per tutti. La nostra MV Lee Budget è l'autrice Maria Virginia, sono 340 pagine per un prezzo di 24 euro, perché ovviamente, come vi abbiamo detto, è un librone. E vi ringraziamo Marta e ci sentiamo presto e ci sentiamo noi a brevissimo per il nostro secondo libro di Tabula Rasa. Grazie Marta, buona serata. Grazie a voi, ciao.